E eccoci in voce. I rumori che sentite in sottofondo è la piazza Taksim o le vicinanze, vero? Pronto? Sì, sono in questo momento sulla strada pedonale che dà su Istiklal, che dà sulla, si chiama Istiklal, siamo abbastanza vicini alla piazza, vicino all'Istituto Francese di Cultura. Io parlerò finché non si tratta di, chiaramente, quindi potrebbe interrompersi la linea. Sentite, questi spari sono delle bombe per fare rumore, hanno appena sparato dei lacrimogeni. La situazione alle 7:30 era molto tranquilla, si è aspettato un po', la piazza era gremita di persone, meno di chiaramente una settimana fa, perché in questo periodo la gente si è un po' spaventata, credo. E la cosa significativa però è che c'era comunque tantissima gente dopo tutta la giornata di guerriglia di oggi, con voci di infiltrati e così via. Però da mezz'ora hanno ricominciato a sparare lacrimogeni e li sparano non solo sulla strada principale ma anche sulle strade laterali, li sparano come hanno fatto finora allo stesso Duomo. La situazione è altamente pericolosa, finora pare ci siano 100 feriti, dicono. La folla però continua ad avanzare, è praticamente una serie di cariche e controcariche, cariche della polizia che ci fa indietreggiare sparando lacrimogeni, e poi però vanito l'effetto, adesso sentite gridano contro il fascismo spalla a spalla, vanito l'effetto del lacrimogeno tutti ci rifacciamo avanti con una specie appunto di controcarica. Chiaramente questa cosa andrà avanti tutta la notte, non si possono fare delle previsioni. Alle 7 sembrava di poter dire che non avrebbero attaccato perché eravamo veramente tantissimi, e invece senti, la stampa parla anche di molti arresti e anche di fermi di avvocati. Ci sì, confermi la notizia? Degli avvocati, sì. E poi abbiamo sentito le dichiarazioni, ecco, di Erdogan. Io vi devo salutare. Ok, ciao. Ecco, insomma, avete sentito perché è così difficile portare in fondo le corrispondenze in questo momento. Insomma, la situazione è molto mobilitata in piazza Taksim e dintorni. Ovviamente torneremo a farvi sapere. Adesso poca musica e poi il mini primer.